siamo vicini a loro e diciamo la musica è la vita che va avanti e noi per la musica siamo qui e continueremo a trasmettere sempre. Dai, eh. Buonasera a tutti ragazzi, DJ Sandrino qui con voi, di nuovo come tutte le settimane, pronto per l'avventura metal. Allora, prima di iniziare questa rubrica, stasera facciamo nuovamente questo appunto che ha appena sottolineato Luigi riguardo insomma la scomparsa di questa nostra ragazza Claudia e speriamo insomma tutta la puntata possa essere stata un qualcosa in più da offrire per insomma il proseguo della nostra esistenza. Allora, il genere che vi passo questa volta è un genere molto tosto, c'è un'architettura molto molto pesante e specialmente per quanto riguarda la parte metal dura e per quanto riguarda invece la parte melodica è molto classica, si rifà molto al rock progressivo. Questo è il progressive metal, i maggiori esponenti del progressive metal che sono mai esistiti. Qui logicamente ci atteniamo al mainstream statunitense, sono stati i Dream Theater. Tutti conoscono i Dream Theater. Io vi do una traccia come assaggino e poi proseguiamo con le spiegazioni. Questa è Another Day. A voi. Thank you. Onda da Radio Risacca, eccoci qua. E allora, questa era Another Day dei Dream Theater. Allora, io vorrei spendere un paio di parole su questo gruppo molto famoso. Diciamo che loro si sono portati appresso fino al 2010 una persona del calibro di Mike Portnoy, loro batterista, e anche diciamo celebrato come uno dei maggiori batteristi che ci siano mai stati, diciamo dai tempi di Led Zeppelin fino ad oggi. Allora, Dream Theater sono nati nel 1985 a Boston e hanno mantenuto la formazione ordinaria fino al proprio al 2010, quindi possiamo dire 25 anni. Allora, questa era Another Day dall'album Images and Words del 1992. Adesso ve ne faccio sentire un'altra. Questa si chiama In the Name of God. We'll be right back.

Allora, torniamo in diretta qui da ZK Radio Risacca. Questa era In the Name of God dei Dream Theater. Dopo i Dream Theater passiamo ad un altro gruppo. Insomma, qui eravamo, diciamo, fine anni 80, primi anni 90. Insomma, poi il gruppo, il genere è proseguito con altri gruppi, di cui altri grandi fautori sono i Symphony X. Allora, vi do un assaggino e poi li approfondiamo. Questa è Paradise Lost. Misty morning, gleaming rays awake the dawn. Here I stand, a stranger in this land. Does your conscience betray you? Falling from grace, feel the sun on my face. Does desire fly E torniamo in diretta da Radio Risacca, DJ Sandrino con voi, alla scoperta oggi del progressive metal. Insomma, i Symphonix sono un gruppo che si è affermato durante gli anni 90 e stiamo insomma procedendo più verso gli anni nostri. Questa era Paradise Lost, viene dall'album che si chiama proprio esso stesso Paradise Lost. Metteremo adesso un'altra traccia, parecchio famosa questa, Inferno. We'll be right back. Eccoci qua, tornati in diretta, Radio Risacca, Sandrino e... Francesca. Buonasera. Allora, questo era Inferno dei Symphony X. Adesso passiamo ad un altro gruppo molto tosto di questo genere. Questi sono gli Opeth. Vi mando in ascolto la prima, che è In My Time of Need. Pain. And I Allora, torniamo in onda. Questa era In My Time of Need, viene dall'album Damnation del 2003. Gli Opeth hanno una carriera ancora in corso a partire dal 1990 ed è sicuramente tra le più floride rispetto al progressive metal. Allora, scusate, mi ero perso per strada un'informazione del gruppo precedente, Symphony X, sono svedesi di origine. Quindi, come abbiamo visto, gli ultimi generi specialmente, abbiamo questa contrapposizione tra gruppi americani e gruppi del nord Europa. Qui continua a esserci. Allora, la prossima traccia, che è sempre degli Opeth, si chiama Ghost of Perdition. Fading, torniamo in onda qui a Radio Risacca. Questa era Ghost of Perdition degli Opeth, viene dall'album Ghost in Reveries del 2007. Allora, dopo questa ce ne passiamo a un altro gruppo, che si chiama Labyrinth. Allora, cominciatevi a sentire Moonlight. Eccoci di nuovo in onda, ragazzi. Allora, quest'era Moonlight dei Labyrinth. Allora, perché ho voluto mettere i Labyrinth stasera? Perché i Labyrinth sono praticamente l'unico gruppo italiano che fa progressive metal. Sono toscani, sono nati nel 91 e niente, questa era Moonlight, viene dall'album Return to Heaven the Night del 1998. Allora, appresso a questa, ne mettiamo un'altra. Questa si chiama Life Today. Eccoci qua ragazzi, torniamo in onda, questa era Live Today dei Labyrinth e ci tengo a dirvi che nonostante tutto sto periodaccio che si portiamo appresso, sta canzone è nuova, 2021, dall'album Welcome to the Absurd Circus. Quindi, di nuovo, dopo il progressive metal, la settimana prossima, sappiamo che conosceremo un nuovo genere, non vi posso dire quale, sempre a sorpresa all'interno della rubrica Gabberzone. Io sono sempre DJ Sandrino e vi saluto questa sera, e vi abbraccio, vi bacio e niente, da Radio Risacca, da tutti i componenti e tutte le persone che abbiamo qui intorno, sempre un grazie a tutti e un abbraccio e un saluto. Ciao! Bye.